Buonasera a tutti. Allora, riprendiamo l'esempio della relazione fra tabelle dell'ospedale. Posso chiederti il foglio, così faccio, lo uso come esempio. Un foglio bianco. Questo. Aspetta. Questo? No, quello è quello. Allora, vediamo un'alternativa all'esercizio che avevamo iniziato la lezione scorsa. Dunque, per chi è la prima volta che viene, sostanzialmente il corso l'abbiamo organizzato, facciamo una rapidissima panoramica. Abbiamo iniziato con una parte teorica, quindi teoria. Adesso stiamo iniziando a sviluppare la parte teorica con l'idea successivamente di andare a fare della pratica. E quindi gli esercizi che stiamo andando a fare in questo momento, a livello teorico, andarli poi a mettere sul computer. Quindi sto introducendo questo esempio qua, che è l'esempio di un ASL, e poi un esempio che vedremo fra poco della gestione di un vivaio, e poi lo andiamo a implementare sul personal computer. Se vuole seguire me, ti mando tutti gli appunti che ho fatto io. Ah, molto volentieri, grazie. Ok, allora l'esempio appunto che abbiamo fatto era di questa ASL. Una possibile alternativa, presentata, era questa, quindi ospedali, con ID, codice, ospedale, eccetera, eccetera, eccetera, reparti con ID reparto, eccetera, eccetera, ID codice ospedale, con una relazione una a molti, poi sale operatorie con ID sala, ID reparto, con una relazione una a molti, dipendenti, ID, codice fiscale, ID reparto, poi c'era uno zero underscore posizioni mediche e uno zero underscore posizioni amministrative, con le relative, lasciatemi scrivere PM e ID PA, chiaramente sarebbero i di posizione amministrativa e di posizione medica, che si vanno ad aggiungere qua. Lascio lì. E sostanzialmente questo era una possibile soluzione dell'esercizio. Sono delle relazioni uno a molti. Sì, ma i campi sono dello stesso tipo. Sì. Esattamente. Solo che nel campo di origine, dove si chiama tabella madre, è una chiave primaria. Dall'altra parte invece no. Sì. Va bene, signori? Ok. Quali sono... Allora, rileggiamoci l'esercizio, che poi io lo chiamo esercizio, ma in realtà poi un domani uno avrà un caso pratico, il caso che gli interessa a lui. Allora, il nostro testo diceva: gli ospedali sono caratterizzati da un codice identificativo dal nome e dagli indirizzo. Chiaramente quelle lineette intendono il nome e l'indirizzo. I dipendenti di ogni ospedale sono caratterizzati da una matricola, un cognome, un nome, una data di nascita, eccetera, eccetera. I dipendenti di ogni ospedale. Allora, qua Nella ha fatto l'ipotesi di dire, ok, io non leggo il dipendente direttamente con l'ospedale, ma leggo l'ospedale con il reparto e il reparto con il dipendente. Il che è una logica, perché effettivamente dentro l'ospedale c'è il reparto, dentro il reparto ci lavora il dipendente. Quindi sostanzialmente questa parte qua è abbastanza è rispettata. L'ospedale è suddiviso in reparti e quindi la relazione ospedale-reparti ci sta. Per ogni reparto si conosce inoltre il medico che ne è il primario e i dipendenti che vi lavorano. Ok? Quindi per ogni reparto si conosce il medico e... i dipendenti che vi lavorano. Scusa, nella tabella dipendente ci sarà anche il medico. Nel caso in cui sarà una posizione medica. Lei ha creato la tabella di più che era la funzione del primario, che tipo di medico è, eccetera. Ma tutto questo potrebbe essere già nella tabella dipendente. Infatti è nella tabella dipendente. Solo che per tutti i discorsi del, ti ricordi, i codici, generi dei film e tutto il resto, per evitare che gli utenti possano inserire voci, per dirlo in termini abbastanza tecnico ed informatico, ad minchiam, sostanzialmente si va a mettere una zero underscore. Quindi in realtà la posizione medica e la posizione amministrativa è dentro la tabella dipendenti. C'è lo zero underscore che sostanzialmente evita tutto lo spiegone della settimana scorsa. No? Esatto. Più che la ridondanza dei dati, che l'utente metta dei valori che non esistono, per cui li va ad acchiappare direttamente dallo zero underscore. Poi ciascun reparto può gestire delle sale operatorie di cui è noto un codice identificativo, per cui ogni reparto... Per ogni reparto ci sono più sale operatorie. D'accordo? E va bene. Che cos'è? Guardatelo un secondo, ovviamente non voi tre perché l'ho detto poc'anzi. Che cos'è che non funziona in questo schema qua? Che uno ci deve fare due lavori, ma non c'è. Esatto. Allora, la prima cosa, il primo problema è sicuramente quello. Ammesso e non concesso che un dipendente possa avere più mansioni all'interno dell'ospedale, questo modello non lo contempla. Mi seguite tutti? Perché? Perché se io dico che per ogni reparto ci sono tanti dipendenti, non sto prendendo in considerazione che per ogni dipendente ci possono essere tanti reparti. Ci possono. Non è detto che non ci siano. E poi l'altro discorso è della matricola, certo. Perché io qua, in base a tutti i discorsi che ci sono fatti la settimana scorsa, avevo messo il codice fiscale e non la matricola come chiave primaria. Perché? Perché ci eravamo detti, ma nel momento in cui Ciccio lavora sia nell'ospedale A che nell'ospedale B, non posso usare la matricola come chiave primaria, perché sarà o nell'ospedale A o nell'ospedale B. E allora abbiamo detto, usiamo il codice fiscale, manca la matricola. Quindi questo modello qua va bene, ma è limitato. E sostanzialmente quello che manca è una relazione che faccia anche il contrario uno a molti. In questo caso ciò che manca, che cos'è? Perché quella diventa da uno a molti, diventa una molti a molti, e quello che manca, che cos'è? Una tabella centrale. Una tabella centrale. E proviamola a guardare un pochino, iniziamo a fare le cose un pochino bene. Proviamola a guardare più da vicino quella tabella centrale, che cosa conterrà? Quella tabella centrale sarà una tabella che chiamerò per esempio impieghi, avrà un ID impiego che può essere tranquillamente un contatore. Perché quando faccio le tabelle di raccordo possono anche essere dei contatori. Poi avrà l'ID reparto e ID codice fiscale, perché abbiamo detto in questo modo per ogni reparto ci lavorano più dipendenti, per ogni dipendente ci possono essere più reparti. Anche in ospedali diversi, perché il testo diceva quello. Tanto il reparto è legato all'ospedale, per cui in realtà di qua lo vado ad acchiappare all'ospedale. Quindi è corretto. Ecco che quindi la mansione e la mansione sia medica che amministrativa non la vado a mettere nel dipendente. Guardate che le caratteristiche lavorative, di età, cose del genere, mal si sposano con la persona, ma con l'impiego, perché in realtà non è una caratteristica del dipendente il fatto di essere un primario anziché un medico ABC, ma è una caratteristica lavorativa e quindi va nella tabella impieghi. Per cui io li toglierei da qua e nel momento in cui ho l'impiego, il reparto e il codice fiscale avrò anche la matricola, e così per ogni ospedale e per ogni addirittura reparto, questo può cambiare matricola, ma soprattutto ID posizione medica, ID posizione amministrativa. Che si vanno a legare poi alle 0 underscore, ecco che così funziona decisamente meglio, perché in questa maniera prevedo che per ogni reparto ci siano tanti dipendenti, per ogni dipendente ci possono essere più reparti all'interno dello stesso ospedale o anche all'interno di ospedali diversi, per ognuno di questi reparti barra ospedale ogni dipendente può avere una matricola diversa, può anche averlo uguale. E per ciascun reparto, per ciascun ospedale, ciascun dipendente può avere delle mansioni amministrative e mediche differenti. Lascia perdere che poi in realtà chiaramente un medico farà il medico, l'amministrativo farà l'amministrativo, però questa struttura diventa così flessibile che addirittura all'interno di ciascun reparto e ospedale ogni persona può fare il medico primario da una parte e l'amministrativo contabile dall'altra. D'accordo? Quindi vedete come una struttura così, tra virgolette, corretta, perché poi formalmente era corretta, però un po' ingessata, automaticamente facendo la riflessione, non ho una a molti, ma una molti a molti, da ingessata diventa particolarmente mobile. Questa viene legata a reparti, qua, a persone lì dipendenti, e poi a la 0 underscore e 0 underscore. Quindi in realtà a reparti e dipendenti. Poi le 0 underscore abbiamo detto sono solo di contorno, no? E a reparti e dipendenti. E che poi una molti a molti, e più o meno. Signori, è chiaro tutto questo discorso? Sarebbe uno a molti. Quando faccio la freccia così, intendo uno qua e molti qua. Uno a molti. E invece due amministrativi, medico e amministrativo? C'è sempre la freccia che fa così, per cui uno a molti. Con i DPM. Nella nuova tabella di transizione, sì. E quindi questo caso si riesce a risolvere il problema di molti modi. Esatto. Questa sì. Quindi ogni caso di molti modi c'è una tabella intermedia. D'accordo, signori? Ma in realtà questa tabella qua lo risolve già il problema, perché nel momento in cui io gli dico che per ogni ospedale ci sono tanti reparti e per ogni reparto ci sono tanti dipendenti, in realtà nel momento in cui io ho un dipendente che lavora in un reparto, quel reparto è solo in quell'ospedale. È legato in maniera indiretta, ma è legato. Quando io poi faccio la query, in realtà posso vedere che quel dipendente che lavora in quel reparto è in quell'ospedale, quindi quel dipendente lavora in quell'ospedale. Idem con patate, perché in realtà nell'impostazione di questo esercizio, se il dipendente lavora in un reparto, quel reparto ha una sala operatoria, quindi quel dipendente può lavorare nella sala operatoria. E allora, essendo una relazione uno a molti, ogni reparto può avere più sale operatorie. Quindi all'occorrenza può lavorare in più sale operatorie. Ma non è da poco come differenza. Perché, ripeto, mentre così è veramente ingessata, perché comunque io... Un dipendente può fare solo può avere solo una mansione medica e solo una mansione amministrativa. Io voglio ben immaginare che almeno un primario possa essere primario magari da una parte in un reparto e magari un... questa cosa lo permette. Comunque, al di là del discorso sanitario, sicuramente questa struttura qua non permette che un dipendente possa lavorare in più ospedali. E l'esercizio lo richiede. Sì, sì, magari. Ma non mi interessa, cioè l'esercizio. Allora, l'esigenza dell'esercizio era questa. Poi, cambiamo discorso. Qualcuno lavora in un vivaio? No. Allora, parliamo di un vivaio. Santo cielo. No, Sì. No, questo qua è... Non lo so, adesso lo vediamo, magari mi dici che sarei già fatto. Comunque, piccolo aneddoto. Voi, come sapete, per chi ha fatto il corso con me l'anno scorso, io sono abbastanza una capra di contabilità. Proprio. Allora, purtroppo, scusa chi lo fa per mestiere, purtroppo per lavoro mi sto buttando sulla contabilità, perché tanto alla fine tutto passa da lì, quindi prima o poi ci si deve arrivare. E, per cui, insomma, sono mesi che sto facendo un po' di training con una mia collega che ne sa decisamente più di me. Oggi mi ha raccontato i risconti e i ratei. Ma che seghe mentali sono sti risconti? Cioè, competenza, tu hai la fattura adesso, poi la competenza al prossimo. Comunque, cioè, secondo me è proprio, cioè, non posso essere volgare perché non voglio essere volgare per il ruolo istituzionale, ma santo cielo, io ti do 100 euro adesso, 100 euro adesso, no, che un po' adesso, un po' il prossimo anno, un po' poi. No, è che l'Italia poi va in frantumi per questo discorso, poi risconti, rati, passivi, attivi. Ti ho dato 100 euro, 100 euro e basta. Sì, ma infatti, infatti poi lo sto vedendo adesso, perché poi ci sono i magheggi, gli ammortamenti, il 4%, 5%, spostiamo di là, mettiamo di qua. Allora, di che vuoi giocare i bussolotti e va. No, perché la finanza non guardi i ratti conti, comunque. Però no, non sono solo importanti, sono fondamentali. Il problema è che sono delle seghe mentali. Voilà. Comunque. No, ma porta, perché mi ci sto... invia, grazie. No, molto volentieri, anche perché... Sì. Ma poi, non so se... Vabbè, basta. Ma poi, non so se qualcuno ha mai sentito parlare degli IAS. IAS. Forse più un concetto finanziario. Sì, praticamente il nuovo concetto contabile europeo. Sostanzialmente quando io società erogo un finanziamento a un cliente. Allora, innanzitutto il finanziamento non è finanziamento. No. È il costo ammortizzato. Quindi finanziamento meno le commissioni più questo meno l'altro. Poi lo pigli e lo spaldi per la durata del finanziamento. Allora con una funzione vedi qual è il ammontare del TAN. In base a quello ti fai una curva di ammortamento degli interessi e quella curva poi la devono seguire tutti a catena. La spesa di istruttoria, io voglio dire, ti do 6.000 euro, me li ritorni fra 5 anni, quanto fa in percentuale? 5% non se ne parla più. E sarebbe tutto più semplice. Allora, signori, torniamo noi. Dopo essermi inimicato uno delle mie studentesse, facciamo un po' di teoria. Allora, l'esercizio seguente è questo, quindi sul vivaio. Allora, si parla di ingrosso, vendita all'ingrosso di piante. tenendo conto che allora, sono trattate diverse specie di piante. Sono trattate diverse specie di piante. Giustamente, se non mi vai. Comunque, se ti ricordi il programmino, mi fai una cortesia. Poi, per ciascuna specie sono noti il nome, noti, per ciascuna specie sono noti il nome ed un codice univoco. Se è da giardino o da appartamento, vabbè, lascerei perdere l'esotica o no, che non ci interessa niente. Ecco, no, invece questo è interessante. Quindi se è da giardino o da appartamento e se sono verdi o fiorite. Poi, nel caso di piante fiorite, sono note le colorazioni in cui ciascuna specie è disponibile. Attenzione, perché non dice le colorazioni, eh? Dice le colorazioni in cui ciascuna specie è disponibile. Ciascuna specie è? Disponibile. Quindi se sono fiorite, ti dice, quella specie lì può essere rossa e verde, l'altra può essere gialla e blu. Poi, i clienti sono identificati attraverso un codice e possono essere privati o rivendite. Questo è bello. Privati o rivendite. Per ciascun privato sono noti il codice fiscale il nome e l'indirizzo chiaramente della persona, no? Mentre per ogni rivendita sono noti la partita IVA, il nome e l'indirizzo. Poi, i fornitori. Questo è già un po' più complesso. Come... E soprattutto non ci dovrebbero essere adito a interpretazioni. Questi vendono piante, se qualcuno le acquista, qualcuno le compra. C'è già l'ingrosso, per cui non dovrebbero esserci privati. Ma siamo in Italia si sa che un po' tutti fanno quello che vogliono. Esatto. Allora, i fornitori sono identificati attraverso un codice fornitore e si conosce il nome, chiaramente la ragione sociale sarà, no? Il nome va bene stesso. Sì, nome. No, perché diciamo la ragione sociale. Diciamo la ragione sociale invece del nome. Diciamo la ragione sociale invece del nome, no? Siamo qua, c'è la lapidazione. Il nome, la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo. E le aziende hanno codice fiscale e partita IVA. Tutte e due. Sì, sì. Che può essere o uguale o diverso. Codice fiscale e indirizzo. No, la partita IVA non la cita. No, perché in realtà la parte più, scusate, la parte informaticamente, diciamo noi, più interessante è il punto dopo, cioè il fornitore può fornire diverse specie di piante. Questo è molto interessante. Ma ciascuna specie di piante è acquistata solo da un fornitore. Cioè vuol dire, Pippo può vendere sia i gerani che ne so, le piante carnivore, ma se io azienda, io vivaio, compio le piante carnivore, le posso prendere solo da Pippo. Ok? Quindi sostanzialmente è una relazione uno a molti e non molti a molti. Ok? È una relazione uno a molti e non molti a molti. Poi, si vuole tenere traccia di tutti gli acquisti eseguiti da ciascun cliente. Io sapevo che mi vado a infognare. Si vuole tenere traccia di tutti gli acquisti eseguiti da ciascun cliente. Un acquisto effettuato in una specifica data è relativo ad una certa quantità di piante ogni acquisto effettuato in una data è relativo ad una certa quantità di piante. Sì, cioè questo si porta a casa una pianta di magnolia, una di... Quindi, oltre alla quantità, anche la qualità. Eh sì, la specie. Che ha anche un senso, no? Cioè io vado a comprare... Ok. Poi, ultimo punticino, il listino prezzi di cui si vuol tenere traccia, il listino prezzi vuol tenere traccia dei prezzi assunti nel tempo da ciascuna specie. E questo è anche molto interessante. Ok, allora ve lo rileggo un secondo, vedete, guardate se avete scritto. Allora, si parla di una vendita all'ingrosso di piante, tenendo conto che ci sono diverse specie di piante, per ciascuna specie è noto il nome, il codice univoco, se è da giardino o da appartamento, se è verde o fiorita. Nel caso di piante fiorite sono note le colorazioni in ciascuna specie disponibile. I clienti sono identificati per codice e possono essere privati o rivendite. Il nome non l'abbiamo messo, nome, indirizzo, codice. Per ciascun privato sono noti inoltre il codice fiscale, il nome e l'indirizzo. Per le rivendite sono note la partita IVA, il nome e l'indirizzo. I fornitori sono identificati tramite un codice di fornitore e si conosce il nome barra ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo. Ragione, nome e ragione sociale. Perché uno può chiamarsi tipo con la ragione sociale, tipo pallino. Sì, ma qua si intende proprio la società, non la persona. Sì, sì. Il fornitore può fornire diverse specie di piante, ma ciascuna specie di pianta è acquistata solo da un fornitore. Si vuole tenere traccia di tutti gli acquisti di ciascun cliente. Un acquisto effettuato in una specifica data è relativo ad una specifica quantità di piante e specie. Ed infine il listino prezzi vuole tenere traccia dei prezzi assunti nel tempo da ciascuna specie. Questo è un gran bel esercizio. E che facciamo in tre quarti d'ora? Ci raccontiamo le favole. Iniziamo a vedere almeno qualche piccola. Allora, va bene, allora, questo fatelo, iniziate a pensarci per casa. Sostanzialmente a casa che cosa bisogna fare? Bisogna andare ad organizzare, lo dico per chi è la prima volta che viene, bisogna andarsi ad organizzare queste informazioni qua in tabelle madri, tabelle figlie e relazioni 1 a 1, 1 a molti, molti a molti. Guardate che lì dentro ci sono anche delle 1 a 1. Quindi bisogna dividere i vari campi in tabelle e sottotabelle e capire quali sono le relazioni tra queste tabelle e sottotabelle. Quindi 1 a 1, 1 a molti, molti a molti. Ora, nel tempo che ci rimane, andiamo ad approfondire il discorso report. Anche perché, sì, anche perché dopo essermi inimicata, se la signora mi chiede il report, io faccio il report. Non ho capito. La signora mi ha chiesto il report, io faccio il report. Mi dispiace darle le spalle. No. Come facciamo? Tutto regolare. cosa? Lì. Ok. Speriamo che adesso non dia problemi. Ok, allora. Sta decollando. Va bene. Allora, spendiamo due parole sui report. Dunque, cosa vogliamo approfondire dal report? Allora, innanzitutto entriamo nella struttura del report. Ok. Allora, per quanto riguarda il report, prima di tutto, una delle cose importanti, sia per il report che per la maschera, è fare clic destro su uno degli oggetti presenti e andare all'ultima delle voci che è proprietà, perché in questa maniera, l'avevamo visto anche con le maschere, si va ad attivare questa finestra qua, che è la finestra delle proprietà. Questa l'abbiamo già vista per le maschere nelle caselle combinate. Allora, una delle prime funzionalità piuttosto interessanti, che in realtà si poneva più come esigenza per il 2000-2003 che non per il 2007-2010, è quella di allineare i vari oggetti. In realtà in questa versione qua perde un po' di significato perché li allinea già di suo. Però se volessimo allineare gli oggetti, perché magari uno è così, l'altro è così, ok? Lì se le, si, allora, quindi allineamento di oggetti. Questo discorso vale tanto per il report quanto per le maschere. Ora li seleziono tutti, quindi tutti gli oggetti. Clic destro, e poi vedete che c'è la voce allinea, ora allinea, li allinea o tutti a sinistra, o tutti a destra, o in alto o in basso. Chiaramente in questo caso li dovrò allineare tutti o in alto o in basso, ok? Perché se li allineo tutti a sinistra, loro si schiacciano. In realtà non voglio questo. Ciò che desidero in questo caso è allinearli tutti in alto. Chiaramente questo non si è allineato perché non aveva spazio. allinea in alto e loro si allineano per menino. Volendo. Ok. Poi, vedete che il report si divide in sezioni. Sostanzialmente le sezioni prevedono un corpo. Allora, tutti i report avranno un corpo e una intestazione report pie pagina report poi hanno una intestazione della pagina intestazione pagina ed un pie pagina. Ora, se avete seguito i miei corsi o comunque se avete un minimo di manualità con l'Office in generale, vi ricorderete che sostanzialmente l'intestazione dei piedi pagina sono degli oggetti che si ripetono uguali per tutte le pagine. Estendendo un po' questo discorso, l'intestazione e il piedi report saranno due oggetti che vengono inseriti all'inizio e alla fine del report. Quindi, se io ho un report di 40 pagine, l'intestazione del report sarà in testa alla prima. Il piede del report sarà in calce all'ultima. L'intestazione del piede di pagina invece si ripetono uguali per tutte le pagine. Dopodiché, come in questo caso, ci possono essere anche delle intestazioni o dei pie di sezione. Vedete che lì c'è scritto intestazione del report, intestazione della pagina e poi c'è intestazione dell'anno. Anno è una sezione, o meglio, un raggruppamento. Ricordate che uno dei passaggi dell'autocomposizione del report è il raggruppamento? Ebbene, c'è l'intestazione una o più, neanche una, scusatemi, 0,1 o più, intestazione di sezione. Zero perché può anche non esserci, se io non faccio nessun raggruppamento, non c'è. Analogamente ci può essere 0, 1 o più, pie di sezione. Tanto è vero che lì vedete che c'è l'intestazione dell'anno, dove c'è semplicemente l'anno, quindi 2010, 2011, quel calè, ma non c'è nessun pie di sezione. Allora, devo essere sincero, nel 2000-2003 non mi ricordo se ci sia questo pulsante, mi sembra di sì. ditemelo e poi lo vediamo insieme. Allora, nella struttura del report vedete questo pulsante qua, che sostanzialmente è formato da una grossa graffa laterale sinistra, due graffette più piccole all'interno e tre linee alla destra di ciascuna delle due graffette. Ma anche a me sembra che ci sia, sì. Sì, sì, perché me lo ricordo bene, quindi vuol dire che l'ho già visto. Ah, ok. Va bene. Comunque, insomma, c'è questo pulsante che si chiama raggruppa ed ordina. Ora, questo pulsante mi permette... Vedete che io lo schiaccio, nel momento in cui lo schiaccio, mi appare qua sotto una sezione che sostanzialmente mi permette di andare ad inserire e a togliere i vari raggruppamenti. Se riuscissi anche a spostare un pochino più su, non mi dispiacerebbe. Niente. Allora, vedete che lui dice raggruppa secondo l'anno, che era, ripeto, quello che avevo scelto durante la fase di autocomposizione l'anno. Ora, spero che risulti abbastanza intuitivo il fatto che io questo raggruppamento, ad esempio, lo posso anche cancellare. Oppure lo posso spostare in basso. Magari se avessi raggruppato per mese e per anno, potevo spostare sotto l'anno e sopra il mese, quindi sarebbe stato raggruppato per anno e per mese, viceversa. E poi vedete che ho ordinato per titolo, per genere e per registra. Posso eventualmente andare ad aggiungere un secondo gruppo. Ma soprattutto, dove c'è scritto altro, vedete che posso andare a scegliere tutta una serie di opzioni, tra cui aggiungere o togliere i totali. E vedete che qua c'è l'intestazione dell'anno, ma non c'è il pie anno. Posso dirgli con intestazione di sezione, con pie di sezione. E vedete che c'è il pie di pagina anno. Quindi tutte le volte che finisce l'anno 2010 o quello che è, lui lo distanzia. Eventualmente gli posso dire con i totali. Questo c'è anche nel 2003. Figuriamoci se non veniva fuori. Quando si parla di totali, subito la gente... Eccoci qua. C'è anche nel 2003. Dobbiamo poi sempre fare l'esperienza. Come? L'esperienza. Sì, sì. Ok? Quindi viene questa roba qua, eventualmente uno si va a inserire una etichetta. Un'etichetta dove si mette il totale inventario diviso anno. Allora, questa è la scritta, quindi me la faccio magari in colore grassetto, rosso, di sfondo giallo. E qua effettivamente c'è il calcolo che lui mi effettua. Quindi quando io vado nel visualizza, vedete che lui mi ha messo elenco film. Ora, elenco film e l'intestazione del report. In fondo al report, quindi il piedi pagina report, c'è la somma, che fa somma, la somma del numero di inventario, che non ha un tubo di senso, però c'è una somma. Quindi se io lo visualizzo e vado al fondo, ok, questa qua è la somma del numero di inventario. Ma quello che mi interessa è che ho inserito anche il piedipagina dell'anno, quindi tutte le volte che finisce un piedipagina, lui mi scrive totale inventario dell'anno e mi scrive il numerino in percentuale. Vedete? Se invece di dirgli in percentuale gli avessi detto non in percentuale, ma il totale complessivo, lui me lo trovava il totale complessivo. Ormai non lo fa vedere. Boh, non so come, ormai non lo faccio vedere. Non c'è più il campo. Sì. Ah no, perché ho cancellato proprio il campo. Ah, c'è nulla. Eccolo qua. Va bene. Ok, vabbè, ancora in percentuale. Comunque, insomma, c'è la possibilità di mettere sia in percentuale sia in totale, eccetera, eccetera. Però, fondamentalmente, quello che mi interessa è che schiacciando quel pulsantino lì si possono andare ad aggiungere o a togliere dei raggruppamenti, anche una volta che il report è stato creato. Quindi non c'è bisogno di cancellare il report e di rifarlo. Basta semplicemente andare ad aggiungere o togliere raggruppamenti. Una cosa abbastanza interessante anche può essere quella di andare a mettere delle interruzioni. Le interruzioni sono una di quelle cose che soprattutto all'inizio mi facevano abbastanza imbufalire, perché non le capivo. Per cui faccio che spiegarvela a voi. Nella struttura sempre del report, devo solo trovarla, la linea, eccola qua. Vedete che c'è l'interruzione di pagina, c'è anche nel 2003. L'interruzione di pagina, se ci passate il mouse sopra, cercate il pulsantino all'interno della struttura che indica l'interruzione di pagina, ma comunque è disegnata, sapete che non sono un grande disegnatore, grosso modo in questa maniera, quindi una freccettina e che una specie di cuneo che sembra incastrarsi in due foglie. Allora, se voi vi posizionate in un punto e schiacciate quel pulsante là, vi appare una strisciolina proprio sottile, sottile, sottile. Infatti all'inizio mi incavolavo perché non la trovavo mai, poi non capivo proprio cosa funzionasse. Comunque quella è sostanzialmente l'introduzione di pagina. Chiaro che non dovete metterla tra un record e un altro, perché sennò lui vi scrive la prima riga e salta la pagina dopo, la seconda riga e salta la pagina dopo. Ma dov'è che ha un senso l'introduzione di pagina? O nel pie di una sezione, anzi, non ho, ha un senso nel piede di una sezione. Se magari ho due sezioni, che ne so, agente anno, quindi prima mette tutte le informazioni dell'agente divise per anno, lo metterò ad esempio nel piede dell'agente. Quindi scriverà agente Vittorio, anno 2010, trum, anno 2011, trum. Salta la pagina, agente Pippo, anno 2010, e così via dicendo. È chiaro? Quindi l'interruzione, io la devo andare ad inserire, abbiamo detto, non qua, perché vedete che qua sono nel corpo. Se io la inserisco lì l'interruzione, guardate tra l'altro che subdola che si mette qua, piccolina. Se io la inserisco lì, vedete che lui scrive un record e poi salta a quello dopo. Quindi se vado alla pagina successiva ci sarà il record dopo, che ovviamente non ha senso. Ma quindi non devo inserirla tanto lì, quanto piuttosto in uno dei vari pie di sezione. A quel punto lui mi mette tutte le varie informazioncine, quando finisce la sezione mi fa vedere il totale e poi mi salta una pagina. Salta nella sezione successiva, in questo caso ad esempio c'è solo un record, mi fa vedere il totale e poi salta la pagina. D'accordo? Ecco, tra l'altro notate la differenza tra il visualizza struttura, visualizza report e visualizza anteprima. Non so se l'avete notata. Nel visualizza report in realtà alcune cosine non si vedono, tipo qua il salto della pagina non si vede. Per visualizzare proprio il report così come verrà stampato devo andare nel visualizza anteprima di stampa. E questa è proprio l'effettivo layout del mio report. Ok? Ho abbastanza risposto sul discorso report? C'è ancora qualcosa che voleva approfondire? Poco ma sicuro, quello è un dogma, però sono riuscito un po' a inquadrare il discorso benissimo. Ok signori, quindi dimmi. Certo. Sì, sì, chiaro. Lì basta fare, invece che il report su una tabella, fare un report su una query. Quindi sostanzialmente tu prendi la query che interroga la tabella fornitori e gli chiedi all'utente che fornitore ti interessa? Vittorio. E lui ti stampa solo i dati di Vittorio. Ah, praticamente, però bisogna entrare nella query. Entrare nella query. Esattamente, tutto lì. Ma il campo collegato, il campo di domanda lo metti sul report o sulla query? Come fai sul report? Non puoi sul report. Io non mi chiedo il fondo. Se il report si basa sulla query. Il report si basa sulla query? Allora è la query che interroga e ti fa venire fuori il report. Però cioè, in sostanza, proviamo a prendere una query, elenco struttura. Facciamoci proprio una query velocissima. Allora, titolo, genere. Quale genere ti interessa? Ok. Se io lo lancio, scrivo avventura, lui mi dà soltanto i film di avventura. ok? E lo chiamo scelta genere. Ora, se io creo un report sulla tabella elenco film, il mio report sarà fatto con tutti senza chiedermi nulla. Viceversa, se io creo un report non sulla tabella, bensì sulla query, lui prima di visualizzare, ecco che parte la domandina, quale genere ti interessa? Avventura. E lui mi fa vedere solo i film. No, mi ha fatto vedere un po' tutto. Ah sì, scusate, questo qua è il sottogenere, questo qua è il genere avventura, ok? Quindi solo il genere avventura. È chiaro? È chiaro, signori? Quindi se io faccio il report che si basa su una tabella, il report non mi sta a chiedere nulla, semplicemente mi fa visualizzare tutti i dati della tabella. Se io la tabella ne faccio una query e il report lo baso sulla query, lui prima lancia la query che mi chiede quello che mi deve chiedere e il risultato me lo mette su un report. Ma se andate a guardare proprio il primissimo esempio che facemmo in questo esercizio, quando parlavamo del telepass anziché le cose della telecom che arrivano a casa, dicevamo io ho il mega database, ma nel momento in cui mi devono arrivare le guide telefoniche a casa, che non sono nient'altro che dei report, faccio una query dal database per città. Che città ti interessa? Torino. Torino, fuori la guida a tutti gli abbonati di Torino. Non è che mi arrivavano tutte le guide di tutta Italia. D'accordo? Like, ma in realtà questo dovremmo averlo già visto. Like and asterisco, like parentesi quadre and asterisco, ok? Ma su questo mi sembra che avessimo avevamo visto che può essere o like qualcosa and asterisco e quindi inizia, lo ripeto, oppure like asterisco and qualcosa vuol dire che finisce con quel qualcosa. Oppure like, asterisco, and. Esatto. Se non ci metto l'asterisco, devo scrivere avventura. Preciso. Sì. Sì, sì, qualcosa può essere una domanda, oppure fisicamente una stringa. Ok, signori, allora io sui report, almeno che poi non ci sono delle domande specifiche, magari mi portate la chiavetta e così lo vediamo anche insieme, non ci tornerei granché sopra. Io per questa lezione vi darei appunto da fare lo sviluppo di questo esercizio. Vi chiedo veramente di provare diverse soluzioni di questo esercizio, studiarvelo un attimino. La prossima lezione però mi volevo concentrare un pochino sulle query, quindi le query di calcolo. Quindi cercate di non mancare, perché si parla di argomenti piuttosto importanti. D'accordo? Buona serata, ci vediamo venerdì prossimo.